Chi è l'uomo pigro? Non sono certamente io, neppure tu. Inger l'altro. Il dizionario definisce pigro: colui che rifugge dalla fatica, dallo sforzo, dall'impegno fisico o intellettuale e dall'azione in genere. O chi agisce ed opera con lentezza e senza entusiasmo. A prima vista l'essere pigro sembra una caratteristica non così malvagia come invece l'essere calunniatore o violento, da preoccupare chi vi si è incline. Eppure la pigrizia è uno degli atteggiamenti più odiosi per Dio. Infatti se cech è una cosa che Dio non tollera e, possiamo dire, odia, è proprio l'uomo inoperoso o pigro. Troviamo questa avversione del Dio Trino nei confronti di chi scansa le fatiche espressa nella parabola dei talenti, nella quale condanna severamente colui che non ha fatto fruttare ciò che aveva ricevuto. Matteo 25:30 lo troviamo nella parabola del fico che non faceva frutti, figura di Israele, e che Dio taglia perché ozioso, Luca 13:6-9, nell'episodio del fico nel quale non si trovano dei fichi primatici e che Gesù maledice, Marco 11:13-21, nella distruzione di Sodoma e Gomorra perché vivevano nell'ozio. Il Dio dei cristiani è principalmente un Dio creatore, un Dio tuttora operante, Giovanni 5:17. E nessuna creatura fatta a sua immagine e sua somiglianza può esprimersi in modo diverso senza offenderlo. Dato che il fondamento e la motivazione dell'operosità derivano dalla natura e dal carattere di Dio. Genesi 1:19, non a caso quindi la Divina Scrittura si indirizza anche all'uomo pigro, non senza motivo, ne traccia le caratteristiche e gli ricorda le conseguenze del suo comportamento. Un invito caloroso da parte di Dio lo troviamo nel libro dei Proverbi. Va dalla formica, o pigro, considera le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone. Si procura il cibo nell'estate e raduna le sue provviste durante la mietitura. Fino a quando, o pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai del tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po', le braccia per riposare, così la tua povertà verrà come un ladro. E la tua indigenza come un uomo armato. Proverbi 6:6-11. Visto e considerato che a volte le parole non servono, sembra che l'Eterno Dio alla fine indichi al pigro un elemento per distoglierlo dalla sua pigrizia, e questo elemento lo si trova negli animali che lui stesso ha creato. Se non vuoi essere solerte, sembra che Dio dica, almeno imita le creature che io ho creato. Come si è detto, la pigrizia non sembra essere un aspetto così grave, ma i risultati di chi agisce d'opera con lentezza e senza entusiasmo, di chi è schivo dall'azione in genere, non sono tra i più belli. Così mette in evidenza la scrittura. Proverbi 20:4. Il pigro non ara a causa del freddo, elemosinerà quindi al tempo della raccolta, ma non avrà nulla. Questa constatazione in merito al pigro è in piena armonia con l'avvertimento di Dio. Chi è pigro? Trova delle scuse per non darsi da fare e così al momento del bisogno non sarà aiutato. Il sentimentalismo e il perbenismo dei quali siamo dotati ci porterebbero ad aiutare chi è pigro. Ma la scrittura mette in evidenza che anche l'elemosinare non porta frutto. Ho presente un uomo che trovava mille appigli per non accettare il lavoro che trovava e con diversi sotterfugi ha sperperato i beni della moglie. Ma quando si è trovato in serie difficoltà non ha trovato che lo aiutasse. La sua reputazione di uomo pigro e disonesto aveva allontanato anche le persone più caritatevoli. E, ancora una volta, si è avverato il seguente proverbio. Proverbi 13:4 Chigro, desidera e non ha nulla, ma l'anima dei solerti sarà pienamente soddisfatta. Desiderare una cosa e non poterla avere è una delle frustrazioni più grandi per degli esseri bisognosi quali siamo. E il pigro realizza proprio la peggiore esperienza dell'essere umano. L'illudente soddisfazione che il pigro riceve nel far nulla o essere senza entusiasmo è niente al momento del bisogno. Ma questo il pigro non lo può comprendere. Perciò un altro proverbio annuncia cattive notizie. Proverbi 15:19. La via del pigro è come una siepe di spine, ma il sentiero degli uomini retti è reso piano. A nessuno piace camminare su delle spine, eppure la persona pigra non si rende conto che l'apparente soffice tappeto dell'inattività prima o poi diventa doloroso. Chi non ha provato rimorso per non aver svolto un lavoro a tempo debito? Chi non ha rimandato per pigrizia un compito, portandone in seguito le conseguenze? Per pigrizia non sono andato dal dentista per il normale. Controllo annuale. E così, quando un dente iniziò a farmi avvertire del dolore, si trovò che una carie era ormai avanzata. Il mio rammarico è solo servito a ricordarmi che la pigrizia ha il suo prezzo, mentre essere solerti è un gran vantaggio. Se il fondamento e la motivazione dell'operosità derivano dalla natura e dal carattere di Dio, occorre dare al lavoro fatto con impegno e solerzia l'importanza che occupa, perché agli occhi di Dio è di gran valore l'attività. Proverbi mezzogiorno e 27. Il pigro non arrostisce la sua selvaggina, ma la solerzia è per l'uomo un bene prezioso. Proverbi 10. 4. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano degli uomini solerti fa arricchire. Serve a poco considerare solo la pigrizia o l'atteggiamento del pigro, perciò è molto più saggio ricordarsi che essere diligenti, attivi ed operosi è un grande vantaggio, dato che ma un forte e determinato impegno non nasce dal nulla, spesso non è possibile neppure suscitarlo, ed ho imparato che per ottenere un successo molte volte è necessario avere un obiettivo. Forse è proprio questo che manca al pigro o a colui che opera con lentezza e senza entusiasmo. Ricordo che quando ero scapolo e vivevo solo in casa di mia madre, svolgevo il mio lavoro in una ditta metalmeccanica con serietà, ma mi interessava solo di arrivare a sera per uscire con i miei amici. Avevo delle capacità che potevo mettere al servizio della società e che potevano migliorare le mie condizioni economiche, ma la cosa non mi interessava più di tanto, finché venne il giorno che mi fidanzai e volevo sposarmi. La ragazza con la quale ero fidanzato era disposta a sposarmi, ma mise come condizione per coronare il sogno del matrimonio uno stipendio che prendeva solo un operaio che aveva una qualifica che a me sembrava irraggiungibile. Fu così che nel giro di un anno non solo lavorai con serietà, ma misi un tale impegno che ottenni esattamente la qualifica che generalmente si otteneva almeno in 5 anni. Questa esperienza mi ha insegnato il valore di dare ai figli e al prossimo degli obiettivi da raggiungere, e ogni genitore, come ogni altra autorità, dovrebbe chiedersi perché ci è tanta pigrizia. Certamente il pigro ha la sua responsabilità, ma genitori, conduttori spirituali, lo Stato e ogni altra autorità devono considerare la loro parte di responsabilità di dare al prossimo delle giuste e sante mete, perché senza mete non si arriva da nessuna parte. Che lezione si deve imparare dal pigro e dalla pigrizia? Innanzitutto, il pigro non è ben visto né ben considerato. Proverbi 10 e 26. Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per quelli che lo mandano. Proverbi mezzogiorno e 24. La mano degli uomini solerti dominerà, ma quella dei pigri cadrà sotto lavoro forzato. Anche il pigro ha la sua parte del giusto e santo orgoglio personale, cioè un senso di dignità, perciò prima o poi realizzerà l'umiliazione di non essere considerato e di dover svolgere compiti per lui umilianti. Se non vuole arrivare ed essere nell'indigenza e disprezzati, è necessario imporsi degli obiettivi per superare la tendenza alla pigrizia. Proverbi 18. 9. Anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. Esiste anche una ragione morale per non essere pigro. Chi vorrebbe essere catalogato tra coloro che sprecano le proprie capacità intellettuali o materiali? Questa è la ragione per la quale nelle lettere di Paolo troviamo l'ordine di essere attivi. Romani mezzogiorno 11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Come si è già detto, se c'è che è una cosa che Dio odia, è proprio l'inattività o la pigrizia. Perciò, per non incappare in un severo giudizio, è saggio essere ferventi, attivi, stimolati, il che vuol dire essere impegnati in qualche servizio nel vasto campo di Dio. In merito a questo, mi fa sempre tenerezza leggere con quanto amore i primi cristiani si incoraggiavano a vicenda. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Ebrei 6.1.1.12. Anche l'apostolo Pietro ha espresso parole incoraggianti che devono essere ascoltate. Usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché, se queste cose si trovano in voi, abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. 2 Pietro 2.5-8. Infine, è indispensabile ricordare che il pigro si crede più saggio di 7 persone che danno risposte assennate. Proverbi 26.16. Mentre chi è impegnato nell'opera di Dio non può esprimere altra preghiera se non quella insegnata da Gesù a tutti coloro che sono affaccendati. Siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Luca 17.10. Se non fai questa preghiera, stai attento. Forse ti trovi tra i pigri. Gennaio 2007. Ellero.